la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Mi sono sempre sentita bionda. Un giorno girerò un film. Mi sono sempre sentito giovane. Ho sempre avuto il pollice verde. Mi sono sempre sentito un pesce fuor d'acqua. Quand je parle une autre langue, je deviens une personne différente. Ho sempre desiderato essere mamma. Mi sono sempre sentita donna. I'd rather dance with you than talk with you. So why don't we just move into the other room? The space for us to shake and hear. La storia di Elena Trimarchi è esattamente la storia di una donna che voleva essere donna, solo che per farlo ha dovuto transitare dal corpo di un uomo a quello di una donna. Dovrebbe essere una cosa che riguarda soltanto Elena, e invece metteteci una bella fetta di transfobia, un paese arretrato, una comunità progressista un po' troppo silente, ed ecco qui che il percorso di Elena, come quello di tante donne o uomini trans, diventa una fatica che viene il magone solo a pensarci. Io sono arrivata ad avere la mia identità attraverso un percorso che non è quello di una donna biologica. La mia infanzia, la mia vita, le mie esperienze sono state diverse rispetto a quelle, cioè, perché io sapevo di essere una donna, ma le risposte che avevo da chi mi circondava non erano quelle che avrebbe avuto una donna, cioè io venivo trattata come non transessuale, perché io ho 50 anni, quindi io 40 anni fa già mi vestivo da donna, 10-12 anni già sembravo una donna, cioè il froso, il finocchio, capito? Per sì. Cui non è che venivo percepita come donna, venivo percepita come altro. Di conseguenza anche la mia formazione psicologica e tutto quanto, le mie esperienze mi portano a dire oggi con consapevolezza e senza nessuna vergogna di essere una donna transgender, una donna transessuale. Certo, lo posso dire io, non è che uno mi ferma per strada e mi dice: ah, ma tu sei una donna transessuale, quello no, però nessuno si deve permettere di farlo, perché a parte il fatto che non è che uno, se vede un uomo, gli dice: tu sei un uomo eterosessuale, per cui non capisco perché qualcuno, ma succede, mi deve fermare e dire: tu sei una donna transessuale, tu sei una transessuale. Io, se vedo un eterosessuale o un omosessuale, non lo fermo per strada, gli dico: tu sei un omosessuale, tu sei una lesbica, tu sei… cioè, capisci? Con noi lo fanno purtroppo, ma questo spetta a me dirlo. Nel contesto e con le persone con cui mi sento di dirlo. E io mi sono esposta pubblicamente perché vedo che in Italia la situazione delle persone transessuali, sia che si siano sottoposte a un intervento, sia che non si siano sottoposte a un intervento, è tragica, soprattutto delle donne transessuali, che sono molto più discriminate degli uomini transessuali. E diciamolo, ci sono persone che nascono con un sesso femminile e transitano per diventare uomini, e che sono meno discriminati rispetto a quelle persone che invece fanno il transito per diventare donne, perché sono meno appariscenti, sono meno visibili, e poi perché siamo una società di, insomma, ancora un po' maschilista, ripeto, un po' maschilista, sessista, quindi l'uomo è più accettato rispetto alla donna transessuale, capisci? E allora ho detto: no, io è bene che se ho l'opportunità, cioè io ho cominciato con un'intervista e poi da lì, perché io mi ritrovavo comunque a 40 anni che non avevo il lavoro. Ho fatto liceo linguistico, poi ho fatto, parlo 5 lingue perché ho anche vissuto all'estero, ho fatto un corso di animatori per comunità di un anno organizzato dalla provincia, ho fatto 2 mesi di tirocinio come animatore di comunità nel carcere di Sollicciano, mi sarebbe piaciuto moltissimo lavorare con i detenuti, oppure lavorare in una comunità con con dei bambini portatori di handicap, niente, non ho mai trovato lavoro. Perché c'è proprio ancora molto razzismo in questo senso? Cioè c'è ancora molta transfobia e c'è molta ipocrisia, perché magari vai a fare un colloquio e quello che non ti assume o che ti scarta, poi è lo stesso che se ti incontri in un locale da sola, ti offre da bere, ti chiede se hai voglia di uscire insieme a lui. C'è molta ipocrisia, non è solo un discorso di transfobia, di paura dell'altro, più che altro è la paura di come si è giudicati dagli altri. Cioè, se io assumo questa transessuale, poi che pensano? Che io me la porto a letto, che io frequento, ma anche se fosse, cioè, perché il problema vero poi di questo paese alla fine qual è? Che gli uomini che frequentano le donne transessuali, che hanno rapporti, legami affettivi o storie sessuali con le persone, non lo dichiarano mai pubblicamente, mentre le persone omosessuali tranquillamente vanno in televisione a dire: noi ci amiamo, vogliamo fare una famiglia, abbiamo dei figli, vorremmo adottare. Cioè, non capita mai di vedere, perché generalmente io sono una donna transessuale, ho un orientamento sessuale di tipo eterosessuale, quindi a me non piacciono i gay, a me piacciono gli uomini eterosessuali, e gli uomini eterosessuali purtroppo, soprattutto in delle città piccole come quella dove vivo io, sono molto condizionati dal giudizio degli altri, sai, perché in qualunque posto disposti ti conoscono. Io poi sono una persona molto conosciuta, sono anche abbastanza visibile, perché io sono una donna transessuale vecchio stampo, sono una donna transessuale degli anni 80, quindi ho calcato un po' la mano forse con la chirurgia estetica, cosa di cui mi pento e che non farei se tornassi indietro, nel senso che apprezzo di più l'essere naturali il più possibile, però sai, eravamo giovani, eravamo inconsapevoli, erano altri tempi, tanto è vero poi tutte le attrici ci hanno imitate, perché da Alba Parietta a Valeria Marini in poi sembrano molto più transessuali di me. Le saluto, sono simpaticissime, per carità, però anzi Alba ci scherza spesso su questa cosa, quindi voglio dire, vedo che le ragazze di oggi, di ventenni, si confondono molto molto meglio, perché non esagerano con le chirurgie. E quindi a queste ragazze voglio dire che non si devono vergognare, perché molte evitano, hanno paura di essere scoperte, ed è brutto secondo me. Quella di Elena e di tutte le donne trans o degli uomini trans è una storia che ha ancora tanti buchi, tanti strappi e soprattutto poca tutela. L'insegnamento di Elena è però fortissimo. La ragazza non si è mai arresa e ha un po' di battaglie aperte che riguardano tutti quanti noi. Che per me sarebbe importante che venisse approvato il DDL 405 che giace in Parlamento e che consente il cambio anagrafico anche alle persone che non vogliono sottoporsi a un intervento. Penso che quella deve essere una scelta che riguarda la sfera personale, però se una persona vive come un uomo, come una donna ormai da tanti anni, non capisco perché non debba avere dei documenti che corrispondono al suo aspetto. Ecco, ci sono altri paesi, Malta, l'Irlanda, la Germania, dove ormai le persone transessuali cambiano i documenti senza doversi sottoporre a degli interventi. Qui in Italia invece bisogna fare delle cause che non sempre si vincono, saranno 2-3 i casi di transessuali non operate che hanno ottenuto il cambio. Ecco, oltre a una legge sulle unioni civili, c'è bisogno anche di legiferare per quanto riguarda le persone transessuali, anche sulla questione del lavoro, perché la discriminazione più forte che subiscono le persone transessuali è quella lavorativa. Che in effetti sui documenti a volte si giocano anche poi tutte delle partite di umiliazione Ma scherzi, cioè tu ora che ora ad esempio ti chiamano per numero quando vai a fare le visite, una volta ti chiamavano all'altoparlante, io mi ricordo che ero umiliante quando mi sono operata, cioè io ero donna, andavo a fare le visite, mi chiamavano al microfono, si può accomodare il signor, e tutti mi guardavano, cioè io non ho mai preso la patente perché mi vergognavo di andare a scuola guida con i documenti da uomo, ho mandato l'università per lo stesso identico motivo, io ho rinunciato a tantissime cose, quindi perché dobbiamo negare? Sono cambiati i tempi. Sì, vediamo, è ora di cambiare. Sì, è ora di cambiare, vanno rispettate le scelte di ognuno e bisogna concedere gli stessi diritti a chi non li ha, mi sembrava importante. Sì. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. La prima volta. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La prima volta. Je lis tous les romans à l'eau de rose rouge. J'en souligne des passages au crayon. Le bonheur m'obsède. Questo che avete sentito è un passaggio del film Ma Vie en Rose. È la storia di Ludovico, 7 anni, che si sente una bambina. Un film di una bellezza incredibile che in Italia non è praticamente mai arrivato in sala e invece andrebbe visto e fatto vedere ai ragazzini a scuola. Perché in fondo, se la nostra società fosse più risolta, persone meravigliose come Elena Trimarchi non avrebbero dovuto subire dolorose umiliazioni. Nonostante tutto, oggi Elena è ancora pronta e combattiva e si prepara a risolvere anche i problemi di salute collegati alla sua transizione da uomo a donna avvenuta tanti anni fa. Dopo aver denunciato l'ospedale che mi aveva fatto il danno, avevo provato a rivolgermi agli ospedali della mia regione, ma non volevano curarmi e io sono stata costretta a organizzare un evento Facebook già 2 anni fa, invitando i miei amici a scrivere al presidente della mia regione affinché si attivasse perché io ricevessi le cure necessarie. Così è stato e subito, devo dire, si sono attivati e chi non mi aveva mai voluta visitare l'ha fatto il giorno dopo e ho subito altri 2 interventi dopo i 3 precedenti nell'ospedale dove avevano fatto il danno, che sono sempre e solo interventi riparativi, spieghiamolo, interventi riparativi per i danni creati. Ho avuto assistenza, ho avuto questi 2 interventi, dopodiché ce ne volevano altri 2, però cosa hanno fatto? Mi hanno detto, signora, vediamo di, non lo so, tu pensi che posso spiegare sì. Che situazione sono io? Sì. Ecco, in pratica mi sono ritrovata con l'intestino deviato e io ormai non ho più una cavità vaginale, ho solo i caratteri genitali esterni. Dopo che a distanza di tempo si è chiuso questa fissura, questa perforazione, andava rimesso a posto l'intestino. C'è chi è capace di farlo in un unico intervento, c'è chi lo fa in 2 interventi. In Italia l'unica cosa che sono in grado di fare è mettere a posto l'intestino senza ricostruzione della vagina, perché hanno fatto pochissimi interventi di questo tipo, cioè 2 o 3, non sono ancora dei pionieri, diciamo. E sinceramente io, dopo tutti i danni che ho subito, parte che sono andata a parlare in un ospedale e il medico stesso mi ha detto: signora, se lei avesse i soldi potrebbe andare in Thailandia, che lì sono bravissimi, di questi interventi ne fanno 20 al giorno e in 2 minuti la sistemano. Un altro medico mi ha detto la stessa cosa in un'altra regione, cioè si sa, basta fare una ricerca, basta informarsi, basta chiedere, sono il più ci sono 100, pensa che a Bangkok ci sono 200 cliniche per il cambiamento di sesso, tra l'altro costa la metà, un terzo anzi, di quanto costerebbe farlo in qualsiasi altro paese, costa un terzo compreso di viaggio e di soggiorno per 3 settimane. Ormai in Italia c'è questa tendenza di, fino ad ora gli interventi di adeguamento di cambiamento di sesso, la gente capisce meglio forse, li passa il servizio sanitario. C'è questo, con Italia la sanità probabilmente, ma anche per altri motivi, perché ultimamente le persone transessuali hanno cominciato a denunciare, ci sono diversi processi, tendono a farne di meno, così li dirottano sul privato, perché li fanno privatamente, gli stessi medici che operano sul pubblico li fanno sul privato, ci sono liste d'attese lunghissime. E magari se vai a fare una visita ti dicono: guardi signora, qui c'è da aspettare un anno, 2 anni, cioè ho aspettato 5 anni per fare l'intervento che ho fatto nel 2002, io il primo l'ho fatto nel 2000, poi dovevo fare un secondo intervento di aggiustamento, sono stata inserita in una lista d'attesa nel 2008 e sono stata operata nel febbraio del 2013. Quest'estate è successo che io ho parlato con diversi medici in diverse strutture e ho visto che la situazione era fresca, ho detto va bene, a questo punto io lo faccio veramente un crowdfunding e parto con una raccolta fondi. Molti forse non capiranno, perché probabilmente c'è quello che pensa, ma io pensano che certi interventi non siano necessari o che non... che siano dei capricci, che siano degli interventi estetici, non è così, perché ha a che fare con l'identità soprattutto. Esatto, con l'identità, con la sessualità, è un organo come un altro, cioè come un fegato che funziona male, certo. Come un cuore che funziona male, cioè voglio dire. Beh, però in qualche modo se non riesci ad avere la possibilità di affermare, se quella è la tua priorità e non riesci a farlo, in qualche modo sì, muori, nel senso che poi non riesci. Perché bisogna tenere danno, esatto. Anche del danno psicologico, cioè tu non puoi avere una vita sentimentale, affettiva, sì. Non ti senti a posto con te stessa, poi hai sofferto, lottato tanto per costruirti una tua identità, sei passata sotto i ferri, gli avvocati, i periti, i tribunali, hai finalmente realizzato te stessa come persona, la tua identità, te la sei costruita con tanto sacrificio, poi arriva un medico che non sa fare il suo mestiere e in un attimo ti trovi all'inferno in pratica. Non è che l'hai scelto tu, non è che l'hai scelto tu, perché hai avuto garanzie da quel medico, le hai avute da chi ti ha operata nel 2000. Senti, ma volevo chiederti questa cosa, prima tu parlavi appunto di identità e di anche di un percorso di sofferenza per riuscire ad avere riconosciuta questa identità, ci puoi raccontare com'è andata, cioè quando è stata la volta in cui hai detto vabbè, io adesso sono Elena Sofia Trimarchi, non sono più quello che ero o che tutti gli altri pensavano in partenza e voglio andare su questa strada, perché poi tu sei una che si è anche molto esposta, ha fatto un sacco di battaglie, ti sei impegnata anche politicamente, socialmente sei molto attiva, quindi è stato un percorso che ti ha tirato fuori anche tutta una serie di forse di possibilità. Sì, assolutamente, perché io ho fatto una scelta di campo, sinceramente io dal 2000 sono anagraficamente donna, quindi potrei tranquillamente starmene a casa o non parlare del fatto che io prima di essere una donna anche anagraficamente avevo un altro sesso, degli organi genitali di tipo maschile, un nome maschile, potrei dire stare zitta, tacere sul mio passato e non raccontare niente, non espormi. Poi finalmente ho acquistato la consapevolezza che bisogna volersi bene per quello che si è. Ci fermiamo qui. Il nostro indirizzo email è laprimavolta@radio24.it. Se avete storie da raccontarci, scrivetecele. Abbiamo anche una bella pagina internet e una pagina Facebook, radio24-laprimavolta. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. Ci ritroviamo domenica prossima, sempre attorno alle 23. Buon inizio di settimana.